L'almanacco dell'altro ieri. L'altro ieri, 20 luglio, era il 202° giorno dell'anno. Il sole sorgeva alle 5:46, tramontava alle 20:45. La luna, nuova, sorgeva a mezzanotte e 56 e discendeva alle 13:51. Potevate, nell'orto oppure in vaso, piantare, trapiantare o propagare per talea, fiori o ortaggi a fiore, come il cavolfiore o il carciofo. L'altro ieri avvenne. Luglio dell'anno 555 Verona, dopo 2 anni di resistenza, cade sotto il dominio dell'impero bizantino. 1578 a Roma, presso la chiesa di San Giovanni a Porta Latina, vengono arrestate 11 persone. 1810 la Colombia dichiara indipendenza dalla Spagna. 1881 guerre indiane, il capo Sioux, Toro Seduto, porta gli ultimi fuggitivi del suo popolo alla resa alle truppe statunitensi a Fort Bufford nel Montana. 1893, una locomotiva sganciata dai vagoni si dirigeva a tutta velocità verso la stazione di Bologna. 1944, il ponte Solferino a Pisa viene fatto saltare in aria dai tedeschi in ritirata. 1944, Adolf Hitler sopravvive al complotto del 20 luglio, un tentativo di assassinio guidato da Klaus Stauffenberg. 1948, Guerra Fredda, il presidente statunitense Harry Truman istituisce il primo arruolamento di leva in tempo di pace degli Stati Uniti d'America, in un periodo di crescente tensione con l'Unione Sovietica. 1969, programma Apollo, l'Apollo 11 si posa sulla Luna e poche ore dopo Neil Armstrong, Buzz Aldrin diventano i primi esseri umani a camminare sulla sua superficie. 1976, programma Viking, la sonda Viking 1 atterra su Marte. Ci raccontano dell'allunaggio le ragazze dell'almanacco. Approfondimento dell'almanacco dell'altro ieri a cura di Bananaio e Maria Elisa di Riva Ombrosa. Sì, proprio il 20 luglio del 1969, che alle ore 20:17, ora locale di Houston, Neil Armstrong e Buzz Aldrin toccano la superficie lunare. Ad essere onesti, non erano solo in due lì nello spazio siderale. C'era anche Michael Collins, meno noto alle cronache, che ha aspettato Neil e Buzz per ben 21 ore nel modulo di comando Columbia. Va bene, però facciamo un po' di ordine e contestualizziamo. Allora, innanzitutto, la navicella della missione Apollo 11, la navicella spaziale, era composta da 3 pezzi: un modulo di comando, il Columbia, che ospitava gli astronauti, un modulo di servizio e il modulo lunare Eagle, che trasporta i nostri astronauti dall'orbita lunare direttamente giù per la Luna. Basti pensare che secondo alcuni per arrivare sin lì è necessario un unicorno e tanta fantasia. Invece per l'Apollo diciamo che la creatività non è stata proprio sufficiente, ma sono serviti un sacco di soldi e, ahimè, anche il sacrificio di qualche astronauta. Quindi l'Apollo 1 si incendia, il 2 non arriva, il 3 si schianta, dall'Apollo 7 all'Apollo 9 riprovano tutti i moduli separati, con il 10 ci siamo quasi, fanno le prove generali, ma solo l'11 riesce a compiere la missione. Però diciamocelo onestamente, bravi tutti, belli tutti, bella boiserie, ma i nostri tre giovincelli non è che partono proprio a cuor leggero, eh? Sia perché tutti quelli degli Apollo prima di loro non hanno fatto una gran bella fine. E sia perché siamo in piena guerra fredda. Quindi, su scienza e tecnologia, da una parte all'altra del globo, si gioca a chi ce l'ha più grosso e la fa più lontano. Che amarezza. Possiamo dirlo. E tra l'altro l'URSS è la favorita, la prima in classifica, perché nell'ottobre del 1957 lancia lo Sputnik 1, il primo satellite artificiale. Giusto un mese dopo lanciano lo Sputnik 2 con la piccola Laika, la cagnetta randagia che supera un addestramento pazzesco e diventa una cosmonauta, ma muore in orbita, ciccetta. E poi, babam, colpo finale, il 12 aprile 1961, il mitico Yuri Gagarin, a bordo della Vostok 1, è il primo essere umano ad orbitare intorno alla Terra. No, io non думаю, что само пребывание в кабине космического корабля моё аналогично пребыванию в кабине Меркурия Шепарда. Agli statunitensi proprio non gli va giù e da bravi rosiconi megalomani, in risposta al successo di Gagarin, fondano la NASA, National Aeronautics and Space Administration, e comincia la corsa allo spazio! E così, colpo su colpo, Stati Uniti e URSS provano a conquistare terreno nell'avanzamento tecnologico e a fare un pezzetto in più verso la Luna. E 7 giorni prima della partenza dell'Apollo 11, i sovietici lanciano Luna 15. Una sonda esplorativa che raggiunge comunque l'orbita lunare prima di Apollo, eh? Ma ahimè, nel tentativo di rientrare si schianta nel mare Crisium, il mare lunare a nord-est del mare della tranquillità. Siamo ancora sulla Luna. E mentre Luna 15 esplode, Neil e Buzz stanno raccogliendo materiale da riportare sulla Terra frettolosamente perché di lì a 2 ore bisogna partire. Porelli. Che ansia. Ovviamente a loro gli viene comunicato subito, eh? E chissà se hanno sentito la Luna tremare sotto i loro piedi. E chissà se ci sono stati davvero poi su questa Luna. Quindi, il 20 luglio alle 20:17, Neil Armstrong dichiara al mondo. Un piccolo passo per l'uomo, un grande balzo per l'umanità. E come per ogni grande evento che si rispetti, tada! Ecco arrivare in pompa magna i complottisti che giurerebbero che gli americani sulla Luna non ci siano mai stati. Ora, a noi che sulla Luna ci siano arrivati prima gli americani non ci piace tanto. Soprattutto perché hanno fatto egemonia linguistica e oggi tocca dire astronauta invece che cosmonauta la russa. Ma per dovere di cronaca, io e Marilisa De Rivombrosa vi riportiamo qui di seguito i tratti salienti del cosiddetto complotto lunare, che a tratti sembrano far dubitare anche chi complottista non è. Innanzitutto, il fatto che non siamo mai più tornati sulla Luna già ci incuriosisce, ma su questo la NASA non si esprime. Ma poi la bandiera americana che sventola come quella di Ostia Lido, peccato che sulla Luna non ci siano correnti d'aria. E su questo la NASA afferma che la forma ripiegata è dovuta all'involucro in cui era contenuta la bandiera, che le ha dato questa forma prima di essere piantata. Bah. Inoltre, molto in dubbio, il cratere mancante sulla superficie lunare che avrebbe dovuto lasciare Eagle, il modulo lunare, come se fosse un'orma. E infine, lo sfondo delle foto lunari, che oltre a mostrare le varie sorgenti di luce nel medesimo luogo e alla medesima ora, lì dove dovrebbe esserci solo il sole, ci sono un paio di foto che i nostri astronauti dichiarano di aver scattato a miglia di distanza l'una dall'altra, ma il cui sfondo è identico pixel per pixel. Vabbè, scetticismo a parte, noi ci siamo dette che se ci hanno creduto i russi, quantomeno le loro verifichette le avranno fatte. Tuttavia, i nostri Armstrong e Aldrin Oltre a un pezzo del modulo lunare, sulla Luna ci hanno lasciato un altro po' di cosine, in ordine. Strumenti scientifici. Un distintivo della missione Apollo 1 in onore degli astronauti morti. Una borsa commemorativa contenente una replica d'oro di un ramo d'ulivo come simbolo tradizionale di pace. Un disco contenente le dichiarazioni di buona volontà dei presidenti Eisenhower, Kennedy, Johnson e Nixon. E Darth Vader. E no, e dai. Una bandiera americana, fosse mai. E dulcis in fundo, una placca con disegnato l'emisfero terrestre. E a quanto pare il prossimo allunaggio è previsto per il 2024, ovviamente in versione turbocapitalista. Quindi, se questi andando ritroveranno tutte queste cosine, che gli vuoi dire a sti americani? Ma in attesa del grande evento che si aprono le scommesse! Puntata minima 5 euro! Il gioco è vietato ai minori, può causare dipendenza psicologica ed è talmente improbabile che tu vinca che ti conviene comprarti una birra. E per la scelta dei prossimi cosmonauti, fra tanta scienza e tecnologia, statistiche e ingegneristiche futurerie, noi scegliamo il parere di un amico tanto caro, che ci ha fatto viaggiare oltre le stelle e oltre la Luna, Gianni Rodari. Sulla Luna, per piacere, non mandate un generale, ne farebbe una caserma con la tromba e il caporale. Non mandateci un banchiere, sul satellite d'argento lo mette in cassaforte per mostrarlo a pagamento. Non mandateci un ministro, col suo seguito di usceri, empirebbe di cartoffi e i lunatici crateri. Ha da essere un poeta sulla Luna dal lunare. Con la testa nella Luna lui da un pezzo ci sa stare. A sognare i più bei sogni è da un pezzo abituato. Sa sperare l'impossibile, anche quando è disperato. Orché i sogni e le speranze si fanno veri come i fiori. Sulla Luna e sulla Terra fate largo ai sognatori. Il 20 luglio del 1578 era un giovedì, regnava Papa Gregorio XIII. Le guardie papaline, forse allertate da una soffiata, si appostarono dietro le colonne della chiesa di San Giovanni a Porta Latina, una basilica tra le più antiche di Roma, allora, come adesso, nascosta nel verde tra le terme di Caracalla e l'Appia Antica. Vennero arrestate 11 persone, tutte di sesso maschile, tutti appartenenti alla borghesia romana. L'accusa è quella di aver costituito un circolo segreto di uomini all'interno del quale si manifestavano legami di affetto omosessuale, si consumavano rapporti carnali e si consacravano vincoli matrimoniali tra le persone dello stesso sesso, osservando la liturgia ecclesiastica con la complicità di alcuni frati. Il processo, avanti al tribunale criminale del governatore, si concluse con una condanna esemplare per 8 degli imputati, tutti ritenuti colpevoli dei reati di sodomia e profanazione dell'istituto matrimoniale. La pena inflitta fu la condanna a morte per impiccagione, eseguita il 13 agosto al Ponte Sant'Angelo, con successivo rogo degli 8 corpi. Un frate venne assolto, forse per evitare un coinvolgimento diretto della Chiesa Cattolica, e altre 2 persone che collaborarono solertemente evitarono la morte. So che viso avesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia ho l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli. Sono tutti giovani e belli. E invece il protagonista della canzone di Guccini, un nome e un cognome preciso, ce l'ha: Pietro Rigosi. I fatti sono riportati dettagliatamente anche in un articolo del Resto del Carlino il 21 luglio 1893. Il giorno prima, il 20, alle 16.45, il telegrafo della stazione di Bologna aveva trascritto un messaggio proveniente da quella di Poggio Renatico. Il contenuto era chiaro: la locomotiva del treno merci 1343 era stata sganciata dai vagoni e si dirigeva ad una velocità di 50 km orari, parecchio per l'epoca, verso il capoluogo senza alcun permesso. Si sollecitavano i colleghi di Bologna e di tutte le stazioni che la precedevano a far transitare il treno su binari sgombri affinché l'azione non provocasse un disastro. A guidare quella locomotiva impazzita c'era il ferroviere Pietro Rigosi, classe 1860, sposato e padre di 2 bambini. Aveva approfittato di una distrazione del macchinista del treno merci per prenderne possesso e poi, facendo fischiare la motrice come un forsennato, lanciarsi al galoppo verso il suicidio. Sì, perché l'intento di Rigosi era chiaro: uccidersi, e lo dimostrò quando, entrando alle 17.10 alla stazione di Bologna e vedendo che era stato deviato su un binario tronco, uscì dalla cabina e si piazzò sul fanale di fronte della locomotiva. Impattò violentemente con i carri merci che si trovavano sulla linea morta. Unico coinvolto dell'incidente, Rigosi. Lui ne uscì vivo ma ferito gravemente. Perse una gamba e fu segnato da profonde cicatrici al volto. Secondo alcune ricostruzioni, il suo obiettivo era un treno di prima classe che in quell'orario stazionava quotidianamente a Bologna. Tanto la stampa dell'epoca quanto la direzione delle ferrovie bollò il suo gesto come quello di un matto, uno squilibrato, da pensionare e graziare misericordiosamente. Ma imputando solo a questa causa il gesto di Rigosi, cancelleremmo con un solo pensiero il periodo nel quale si svilupparono i fatti. Gli anni a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento furono dense di azioni anarchiche. convinti dell'oppressione del sistema borghese ai danni della classe proletaria. L'oppressione si sviluppava attraverso condizioni di lavoro difficili, salari molto bassi, ineguaglianze sociali evidenti in ogni ambiente della società. Dovremmo tutti ricordare l'omicidio dell'imperatrice Sissi e il regicidio di Umberto I da parte dell'anarchico Gaetano Bresci. Io non ho ucciso l'uomo, ho ucciso il re. In quell'assolato giorno di luglio del 1893 Pietro Rigosi prese la decisione, si sarebbe scagliato a folle velocità contro un treno di lusso che transitava quotidianamente dalla stazione di Bologna. L'oppressione sociale si sviluppava nelle differenze di classe, nella vita come nelle carrozze dei convogli dei treni. Durante il ricovero a un giornalista della Gazzetta Piemontese dichiarò: che importa morire, meglio morire che essere legato. L'azione di Rigosi fu l'eclatante gesto di un ferroviere che più volte aveva dimostrato di mal digerire le durissime condizioni di lavoro e le dure punizioni aziendali riservate a chi non rispettava la ferrea disciplina. Erano anni in cui i macchinisti spalavano quintali di carbone per percorrere pochi chilometri, facevano turni massacranti che li portavano a guidare spesso per più di 24 ore e avevano una speranza di vita assai breve. Evidentemente quello di Rigosi era un atto estremo che voleva porre l'accento sul mondo dei ferrovieri e più in generale dei lavoratori, che in quell'Italia di fine Ottocento non si vedevano riconosciuti i diritti più elementari. Qui finisce l'almanacco, un saluto a tutte e tutti e i nostri cuori sempre in lotta in queste ore, in questi giorni, a Carlo. C'eravamo allora, ci siamo ora e ci saremo sempre. Con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ben sicuri mai non siamo che quel posto dove andiamo non ci inghiotte e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che c'è lì, che in fondo è come noi, selvatica. Ma che paura che ci fa quel mare scuro, che si muove anche di notte, non sta fermo mai. Genova per noi, e stiamo in fondo alla campagna. Abbiamo il sole in piazza, la rivolta, il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Ah, ah, ra, ra, ra, ra, ra. Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova. Ed ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo, un po' randagi ci sentiamo noi. Ma Gaia, scimmia di luce, di follia, Boschia, pesci, Africa, sonno, nausea, fantasia. E intanto, nell'ombra dei loro armati, tengono lini, le vecchie lavande. Lasciaci tornare ai nostri temporali. Genova, ai giorni tutti uguali. In un'immobile campagna con la pioggia che ci bagna, i gamberoni rossi sono un sogno. E il sole è un lampo giallo al parabrisi. Con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova. Ah. Con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova. Ah, ah, ah. Thank you.